Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata, buon caffè a tutti, perché questo è l'argomento di cui parleremo. Parleremo del caffè qualitativo in Italia, cosa si beve, ma parleremo soprattutto anche di che cosa sta succedendo all'estero, quali fenomeni che potrebbero anche poi influire nel nostro paese. Bene, è noto che noi siamo imparati nel caffè, cioè tutti i baristi o tutti i consumatori credono di sapere tutto sul caffè e quindi di poter sempre dare giudizi e dire sempre che il loro è il migliore, magari senza confrontarsi. Ma è proprio così? Si beve un ottimo caffè in Italia? E cari radioascoltatori, a voi anche la palla, 800 24 0024 349 238 6666. Voglio sapere appunto cosa ne pensate, ma prima cominceremo, introdurremo subito l'argomento, magari musicale. Luce puzza a me, fa mozzana tutta quanta, invece ci aiuta, ci butto le caffè. Bene, Gabriele Cortobassi è con noi ed è del Caffè Espresso Italiano, un blog e anche un addetto ai lavori. E allora a lui, che vedo spazia anche in giro per il mondo, voglio chiedere, Cortobassi, ma cosa sta succedendo a Londra, negli Stati Uniti? Sta imperversando il fenomeno del caffè? Sì, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. E in effetti è vero, all'estero il caffè sta avendo un boom, il caffè all'italiana sta avendo un boom, dico il caffè all'italiana perché il caffè naturalmente è famoso da molti anni e ne bevono anche come consumo pro capite ben più di noi. Ma l'Espresso sta avendo una grande impennata di consenso e di successo, tanto che abbiamo una preparazione molto spesso più nel medico californiano che non nel barista italiano. Quello che succede probabilmente è che l'Italia sconta in qualche maniera un'eccessiva familiarità col mondo del caffè, no? Noi italiani siamo abituati a vederlo fare fin da bambini e lo consideriamo un prodotto banale, non degno di essere ascoltato, di essere considerato e di essere preparato con proprietà. Al contrario, gli stranieri lo scoprono e quindi lo valutano come un'esperienza, qualcosa da ascoltare, da percepire, da fare perfino con grande cura e attenzione, fino ad arrivare a dei livelli di cultura che per noi sono assolutamente impensabili. Ecco, lei ha toccato un tasto secondo me molto importante, ha parlato di cultura. Non è che noi, appunto, ha detto prima, fin da bambini siamo abituati al caffè, non è che stiamo un po' dimenticando che anche per bere un caffè o fare un caffè ci vuole un minimo di cultura? Da un lato ci vuole formazione, dall'altro ci vuole anche formazione sensoriale per dare un giudizio sul caffè. E non pensa che questa mancanza di cultura stia facendo calare verso il basso la qualità media del caffè in Italia? Assolutamente sì, e da una parte perché c'è proprio una mancanza di cultura, quindi, come dice giustamente lei, una mancanza di capacità di ascolto, di sentire organolotticamente il caffè. Dall'altra devo dire che alcune realtà commerciali italiane hanno un po' giocato con questa mancanza di cultura, andando a proporre sempre più miscele di basso livello, un po' con lo scopo di abbassare i costi e di far percepire elementi diversi da quelli della qualità, ma che hanno col tempo sono riusciti a far sentire al consumatore italiano come elementi importanti, ad esempio la crema o il fatto che il caffè fosse molto amaro o altro, sono da considerare alcuni difetti addirittura del caffè quando sono spinte in maniera eccessiva. Una crema molto densa, molto corposa, spesso è segno di un caffè di qualità robusta, non arabica, eccessivamente tostato. E questo porta quindi a un caffè che è cattivo dal punto di vista organolettico, ma che il consumatore spesso, con lo zucchero che ci rimane a galla, percepisce come buono. Quindi non soltanto poca cultura, ma addirittura cultura in senso sbagliato in certi casi. Senta, e quanto hanno influito su questo abbassamento di qualità le cialde, il boom delle cialde? Diciamo che si sono inserite bene in questo canale, poi in realtà le cialde di per sé non sono né negative né positive, probabilmente hanno però colto l'andamento del mercato che c'è a prezzo più basso. Se guardiamo internet, spesso le promozioni di cialde non sono fatte in base alla qualità, ma anche in questo caso in base alla mia 22 centesimi, la mia 21, no? Per cui c'è soltanto un approccio legato al prezzo, come un po' nel mondo del caffè da bar. Il caffè in Italia rimane una pillola che deve costare un euro, qualcosa che mi sveglia la mattina, quindi non è un prodotto degno di essere considerato per la sua qualità. e le cialde e le capsule viaggiano un po' su questa stessa linea in questo momento. Bene, grazie Gabriele Cortopassi. Abbiamo Mabi da Porto Cervo, una radioascoltatrice, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno. Sì, senta, io quello che ho riscontrato negli ultimi anni è in peggioramento continuo, è che non solo manca la qualità del caffè, manca la qualità dei locali dove si somministra il caffè. Si va nel caffè a prendere il caffè giusto per la disperazione, perché si ha l'abitudine e la voglia, non certo per intrattenersi, per passare un 15 minuti di piacere o 30 minuti di piacere. Vuoi fuggire via perché sono di suc, dall'odore di cibi misti di pessima qualità oltretutto, quindi proprio ti manca la voglia e ci vai non certamente per il desiderio e la tradizione che abbiamo sempre avuto. Bene, grazie. Fulvio da Roma, un altro radioascoltatore, buongiorno Fulvio. Buongiorno. Prego. Non sono d'accordo con lei sul fatto che all'estero fanno il caffè migliore che in Italia. Io vivo molto all'estero e non vedo l'ora di rientrare per prendere un caffè in un bar italiano. Bene, sono contento, perché bisogna che ci siano pareri discordi. Lei ha mai bevuto caffè, non so, a Londra o ad Amsterdam, in queste micro torrefazioni molto particolari dove si degusta certo, veramente il caffè? Ho bevuto delle schifezze incredibili. Ma dove? Diciamo, parliamo di Londra, parliamo di Monaco, parliamo di Friedrichshafen, parliamo di Parigi. Sì, ma le stavo chiedendo se ha provato queste micro torrefazioni molto particolari. Sì, ma l'espresso italiano è imbattibile, mi scusi. Bene, bene, sono contento di queste forme di nazionalismo. Continuiamo così, poi vedremo scoprire il boom all'estero, portarci via magari anche il primato sul caffè. Io faccio la provocazione ovviamente, cari radioascoltatori. Sentiamo un altro radioascoltatore, Michele da Gallarate. Buongiorno Michele. Buongiorno De Paolini. Prego. De Paolini, giusto? Paolini. Paolini, bene. Scusa. Niente, io sono un amante del caffè, non solo del caffè ma anche del cibo, però del caffè. E 24 anni fa, l'unica volta che arrivai in via Caracciolo pensando di bere il caffè nella patria del caffè, rimasi il 15 agosto delusissimo bevendo una ciofeca, come si suol dire, come lo diceva il grande Totò, e rimasi delusissimo. E sono anni che nei bar, nei posti pubblici, soprattutto dove c'è il passaggio, mi ero accorto che il caffè era la chiavica. Io, ahimè, mi tocca bere il caffè, vabbè, non faccio la pubblicità, insomma, quello. Ma non mi dica che lo beva, non mi dica che lo beva nella cialda, ma guardi che c'ho. No, la cialda non lo. In regia c'ho Giorgio De Luca, che è napoletano, che fa segno che lui non è d'accordo su Napoli. Vabbè, questo lo vedremo. Però lei dà un giudizio negativo. Allora, numero verde 800 24 00 24, intervenite anche se ritenete che invece, diciamo, il presupposto sia tutt'altro, che si beve in Italia uno straordinario caffè. Ma noi continuiamo con i nostri ospiti e ho con noi Enrico Wurm, che è giudice internazionale del World Coffee Events e è un manager anche della Marzocco, nota casa costruttrice di macchine per il caffè. Buongiorno Wurm. Buongiorno, grazie per avermi invitato. Senta, volevo chiederle, lei ha sentito un po' il giudizio di questo ultimo, altri si sono espressi positivamente, ma lei non trova che in Italia abbiamo un po' la presunzione di essere imparati sul caffè e quindi di dire, beh, all'estero è tutta una ciofeca, noi siamo i migliori, non abbiamo bisogno di insegnamento, nasciamo e siamo già imparati. Lei cosa ne pensa? Lo dice chi purtroppo ha pochi contatti con l'estero. Io dell'Italia non posso parlarne, perché comunque io passo la maggior parte del mio tempo all'estero e sono a contatto con i migliori attori di questo mercato, di quello che appunto si chiama la specialty coffee, che è questa corrente del caffè di specialità. Torno appunto ieri da un viaggio di una settimana in Danimarca, in Norvegia, in Svezia, che sono i mercati in cui la cosiddetta corrente da specialty coffee ha attecchito prima. Senta, Enrico, visto sì. Che i nostri radioascoltatori, molti non sanno cos'è sì. La specialty coffee, ci vuole spiegare cos'è? Ma la specialty coffee è praticamente una corrente che si è sviluppata negli ultimi 10 anni e aderente a questa corrente sono la ricerca continua di caffè particolari, speciali, super tracciati, coltivati in una certa maniera e anche tostati e preparati in una certa maniera. queste persone sono, fanno parte della specie di coffee, una galassia di microtorrefazioni di estrema qualità, che tostano caffè a bacia a quantità molto ristrette, e non solo hanno un'attenzione maniacale per la selezione, la tostatura, ma anche per la preparazione. Cioè il barista non prepara, cioè lo tosta il caffè, ma lo prepara con una meticolosità chirurgica, e quando lo serve spende almeno un paio di minuti a fornire informazioni sul caffè al cliente, quindi il caffè da dove viene, come è preparato, le doti salienti di quel caffè. E quindi è un po' come andare in un'enoteca quando si entra in un bar della specialty coffee. Quindi diciamo che si fa cultura, e questo è il punto. Si fa cultura, sì. Rimanga con noi Enrico, perché poi abbiamo tanti radioascoltatori. Francesco da Trani, prego. Sì, salve, buongiorno. Niente, io volevo testimoniare il fatto che appunto viaggiando, avendo viaggiato abbastanza all'estero quando ero giovane, ogni volta mi capitava da italiano di essere, come dire, depositario secondo loro di come doveva essere il giusto caffè, e spesso mi capitava di avere di conoscere persone che comunicavano blend, qualità di, appunto, del chicco piuttosto che della provenienza geografica, tutte cose che francamente a me in Italia non è mai capitato di ricevere. Cioè non è che vado in un bar, mi dicono assaggia questa arabica 100% piuttosto che un'altra qualità. Cioè normalmente in Italia vai al bar, bevi il caffè e si presuppone che quello è il caffè più buono della città, diciamo. Cioè, e tu sappia tutto. Sì, grazie, esatto. Francesco, di questa sua testimonianza. Ma abbiamo con noi Luigi Lupi, che è un trainer dei baristi e fa parte della Speciali Coffee Association. Coffee Association Europe. Ecco. E, senta, Lupi, lei fa, appunto prepara i baristi. Allora, so che lei le prepara sia in Italia che all'estero. Ecco, volevo chiederle, c'è maggiore attenzione in Italia o all'estero? O anche in Italia si fanno molti, diciamo, molti corsi di formazione? Poi vedremo anche questo, perché le grandi industrie sicuramente ne fanno tanti, però voglio chiedere a lei questo parallelo tra Italia e estero. Sì, diciamo che sicuramente è tutto vero quello che si sta dicendo, e che in Italia siamo nati tutti un po' imparati, no? E ci si rende conto poi che a volte, quando ci si confronta con baristi esteri che hanno cominciato a fare questa professione sul serio, ci si rende conto appunto che noi abbiamo poca conoscenza su quel prodotto che somministriamo poi al nostro pubblico. Infatti io dico la formazione è una cosa fondamentale, io dico ai baristi e alla gente che ci sta ascoltando che somministra questa bevanda, che è, di cui noi siamo stati inventori, stiamo parlando dell'espresso, non del caffè generico, dell'espresso, dovremmo dare un po' più attenzione a come lo si somministra, avere la conoscenza delle materie prime e soprattutto fare dei corsi di formazione. Dovremmo investire molto di più sulla formazione. Bene. Ma è così un po' in tutti i settori, no? Certo, questo è l'andamento. Certo. Il caffè, richiude un attimo, una piccola parentesi, è l'andamento italiano, no? Sì, sì, andando un po' tutto lo scattafascio. Ma noi riteniamo imparati in molte cose, sulla pizza, sul caffè, invece poi vediamo, sulla pizza stiamo riprendendo, devo dire, comunque. Sentiamo Lello da Sassari, un altro radioascoltatore. Buongiorno Lello. Buongiorno dottor Paolini, sono un suo afficionato. Bene. Io volevo spezzare una lancia a favore dei baristi, per questo motivo. È anche una proposta alle aziende produttrici di caffè che prima di inserire un caffè in una serie di caffetterie dovrebbero fare un corso proprio ai baristi, perché molti purtroppo oggi per motivi di lavoro si improvvisano ad aprire delle attività. Il caffè, ho sentito il nostro primo nostro maestro che ci ha spiegato, io che sono un appassionato ho capito tante cose tra arabica, robusta e via dicendo, e le qualità, ad esempio bisognerebbe sprecare due parole verso l'avventore, per il motivo che giustamente, come ha detto il nostro primo specialista, anche la crema che si dà nel caffè non è data dall'arabica o dalla troppa robusta, è anche dalle cere e dai grassi. Bisogna stare attenti, un caffè con una crema spessa non è sintomo mai di qualità, assolutamente. Beh, perché poi i caffè vengono trattati, anche bisogna vedere dove viaggiano i vagoni, perché il caffè è un prodotto vivo che se viaggia con l'avena o con un sacco le fazende come arrivano, prende gli odori e anche a volte i sapori, le sfumature di quello che viaggia, con cui viene trasportato. Bene. Poi bisogna saperlo anche gestire, nella macchina deve essere perfetta, gradazione, acqua, depurazione e temperatura, non è semplice, è un pianeta molto... Bene. Quindi io consiglierei alle aziende di fare un piccolo corso, no, per tirare il caffè, sì. Ottimo. Comunque guardi, ci sono già molti corsi, probabilmente il numero dei bar e dei tanti espressi che si fanno in Italia probabilmente non riesce a rendere appunto, diciamo, disponibili un po' tutti questi posti per questi corsi, oppure se c'è anche da parte dei baristi una ritrosia a partecipare. Ma io voglio ritornare a Enrico Wurm, perché voglio chiedere, ci ha spiegato appunto di questo fenomeno delle microterrefazioni che mi ricordano molto le microbirrerie che in Italia anni fa erano assenti, poi all'improvviso oggi sono ben 600 e si continuano a sviluppare. Ecco, Enrico Wurm, le voglio chiedere, in Italia se lei ha già sensazione che questo fenomeno stia prendendo piede e si stia estendendo? Sì, beh, le microtorrefazioni è un fenomeno che sta prendendo piede pian pianino, siamo appena partiti. Solo l'anno scorso un italiano è arrivato alla finale dei campionati del mondo baristi, e questo ragazzo adesso oggi una piccola torrefazione in centro a Firenze. Io appunto, poi le dicevo, ieri sono stato in Norvegia e ho visitato un altro ragazzo giovane sui 30 anni che ha vinto il campionato del 2004 e oggi è riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori selezionatori di caffè verde e anche torrefattori. Questo ragazzo ha un blog da tutto il mondo, nei paesi d'origine, seleziona i migliori caffè verde e li commercializza un po' facendo un po' di posti online tipo eBay, garantendo tracciabilità sul prodotto, trasparenza su prezzi, processi, provenienza, e appunto non solo fa un caffè incredibile, ma lo tosta e lo rende anche, cioè, lo rende anche la materia prima disponibile ad altri piccoli torrefattori, per cui c'è anche un aiuto. Questo piccolo mercato. Ma mi sembra che tra l'altro ci sia nei prossimi giorni proprio il campionato di torrefazione in quel di Rimini, quindi un campionato mondiale. Mi sembra che addirittura il campione italiano sia un mio conterraneo, sia un romagnolo. Ma sentiamo Andrea da Roma. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Prego. Io volevo portare la mia personale testimonianza, in quanto io sono il presidente di una piccola media azienda che ha quasi 125 anni. Siamo presenti nell'Italia centrale e sono stato invitato un po' di tempo fa da un'azienda produttrice di macchine per il caffè espresso, di cui non faccio il nome, e erano tutti stranieri, c'erano questi micro torrefattori, campioni, baristi, eccetera eccetera. Io ho assaggiato i prodotti che loro hanno portato e non mi hanno fatto utilizzare i prodotti che io avevo portato, perché chiaramente era un momento di gloria per loro, in quanto questa azienda esporta il 70% della propria produzione. E questi prodotti che io ho testato non erano nulla di che. Il secondo giorno poi ci hanno fatto fare una specie di lezione da un signore membro della Specialty Coffee Association, il quale ci ha fatto assaggiare un caffè buonino e un caffè decisamente cattivo. E alla fine della storia ha detto che il caffè cattivo era caffè italiano. Ho capito. Per cui noi ci siamo guardati, la torrefattrice, che parlavamo tutti e due inglese, che era della provincia di Salerno. Tra l'altro i salernitani sono i migliori produttori di caffè, secondo il mio modesto parere, della Campania, quindi fanno dei caffè molto buoni. E allora ci siamo chiesti, forse c'è qualcosa di sbagliato, probabilmente questa azienda chiaramente la deve dare calda a questi, diciamo, piccoli clienti che ha, in quanto esporta quasi completamente. Ma io ho visto pure un po' la situazione attuale dell'Italia e lo scarso rispetto che ci siamo guadagnati, dove anche le cose che noi abbiamo inventato oramai non siamo più capaci a farle. Questo è il concetto. Bene. Certo che vi invoglia veramente a questo punto di prendere un caffè, magari un caffè ben fatto, sul quale in Italia molti sono d'accordo, altri sono in disaccordo. Ma voglio tornare a Luigi Lupi, appunto trainer di baristi. Voglio chiedere, perché secondo lei, Lupi, c'è questa ritrosia molto italiana di imparare il caffè, di imparare cultura sul caffè? Perché diamo per scontato che sia così facile fare un espresso. In effetti non è difficile, però bisogna seguire determinati parametri che molto spesso ci dimentichiamo di fare. Io mi rapporto soprattutto al discorso di tutte quelle famose regole che ci sono da fare per fare un espresso, che sono comunque la pulizia della macchina del caffè, l'acqua giusta, perché il 95-96% di espresso è fatto di acqua, e poi soprattutto una cosa che nessuno mai dice è la macinatura fresca del caffè. Quindi lei dice, sembra una regola semplice, è vero questo, però purtroppo poi i risultati molte volte sono dei pessimi caffè, questo è il problema. Perché io adesso qui vorrei non crearmi dei nemici, però dico io le colpe principali le do alle associazioni di categoria, che sono quelle preposte a dare le autorizzazioni ad aprire i locali commerciali, e in questo caso ai bar, a chiunque, no? Fanno fare 100-120 ore di corso di formazione, dove il corsista, per poter avere questa autorizzazione, fa 120 ore di cui non so quante ore possa fare di bar, in alcuni casi nemmeno una. Torniamo alla formazione, torniamo anche alla formazione, certamente, quella gastronomica dei cuochi, ma sa, ci potrebbe essere, diciamo, una soluzione. Beh, fare un bel talent televisivo, talent show televisivo, a questo punto, come è successo con gli chef, il 35% di giovani si iscrivono e vogliono imparare. Lanciamo questa idea, chissà. Bene, la ringrazio, grazie Lupi, sentiamo un radio ascoltatore, Lanfranco da Vicenza. Buongiorno. Buongiorno Paolini. Prego. Io le volevo solo dire che da circa 21 anni viaggio sempre per lavoro, prevalentemente nel bacino europeo, quindi parliamo di Germania, parliamo di Inghilterra, paesi scandinavi, eccetera. E ho effettivamente, mi sono reso conto che negli ultimi anni la qualità del caffè all'estero sta migliorando. Cioè, una volta mi ricordo che bevevo un espresso ogni tanto, adesso lo chiedo sempre di più, perché proprio mi sono accorto che c'è probabilmente più cultura. Io non conosco le micro torrefazioni di cui parlava lei, purtroppo non ci sono mai incappato, però effettivamente in Italia ho visto negli ultimi anni che è un prodotto, secondo me, un po' lasciato lì in disparte, quasi, non dico nel dimenticatoio, però è un prodotto al quale non ci si dedica molta più cura. Bene, grazie della sua testimonianza, Ora abbiamo con noi Andrei Godina, assaggiatore di caffè e responsabile per l'Italia della SCAE, e a lui voglio chiedere questo, ma c'è veramente, visto che assaggerà tantissimi espressi, tantissimi caffè, tantissima materia prima in Italia e all'estero, ma volevo chiedere se questo divario si sta allargando tra l'Italia e, diciamo, l'Europa, alcuni paesi europei e gli Stati Uniti. Buongiorno Andrei. Sì, buongiorno, e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Effettivamente il divario tra la qualità del caffè in Italia e l'estero si sta allargando. All'estero molto spesso è più facile bere un buon caffè rispetto all'Italia, e questo per varie motivazioni. Sicuramente, come diceva Enrico, la Specialty Coffee Association of Europe e of America ha contribuito a diffondere la cultura di qualità e del caffè di qualità all'estero, cosa che in Italia effettivamente a volte siamo rimasti indietro. Quindi è una questione sempre di cultura e di formazione, anche secondo lei, questo punto? Non solamente, ma anche qualità della materia prima. Io recentemente, appunto per la trasmissione Report di Rai 3, ho avuto modo di viaggiare in alcune città italiane e di andare a degustare espressi nei bar, e molto spesso la scarsa qualità della tazzina era dovuta alla scarsa qualità della materia prima, e cioè riconoscibile, in quanto una materia prima di scarsa qualità porta dei sentori in tazza che sono ben riconoscibili dall'assaggiatore. È per questo che io avevo messo su Tazzulella Caffè, proprio riferendomi a Napoli, dico di Andrei. Ma rimanga con noi, abbiamo sentito cosa ha detto appunto ora questo assaggiatore di caffè, e abbiamo con noi un titolare delle piantagioni del caffè, Enrico Meschini, e voglio passare la palla a lui per sapere cosa ne pensa. Buongiorno Meschini. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti. Io cosa ne penso? Io mi trovo sempre, diciamo, abbastanza d'accordo con il punto di vista di Andrei Godina su quello che è la materia prima. Per farne un esempio, cioè ritornando un po' al punto dei caffè speciali che avevamo toccato prima, no? Sì. Certamente è praticamente impossibile definire cosa sia un caffè speciale, ma tanto per avere un'idea, no? In Italia non c'è nessuno che propone un qualche cosa che assomigli vagamente a ciò che succede nel vino. Se lei, che naturalmente ha un grande esperto della materia, in particolar modo sto facendo riferimento al vino, le offrissero un vino e gli dicessero che è un vino italiano, e lei poi la prima domanda che farebbe è poi? Invece il massimo che può succedere in Italia, ma proprio quando c'è qualcuno che fa veramente qualcosa di veramente particolare, è che ci si vede offerto un caffè che è brasiliano o un caffè che è guatemalteco. Nessuno va a vedere da dove viene questo caffè. Questo è quello che succede nel nord Europa, nelle fasce più avanzate dal punto di vista culturale, questo che non succede invece in Italia, cioè non c'è pochissime persone che offrono un prodotto di cui si sa tutto, fino alla piantagione, fino al produttore, e non c'è un colloquio con i produttori di caffè. Ma speriamo che questo fenomeno che è successo col vino, perché diciamo che fino agli anni 80 insomma anche il vino non aveva questa culturizzazione, sta succedendo con la birra, speriamo che il prossimo passo sia veramente il caffè. Numero verde 800 24 00 24 per i nostri radioascoltatori. Sentiamo Salvatore dalla provincia di Roma. Buongiorno Salvatore. Sì, buongiorno signor Paolini. Volevo intervenire perché negli ultimi anni noto che in Italia è difficile trovare un caffè buono. Sì. Molto spesso lo trovo più buono all'estero che in Italia. Prima si diceva che all'estero il caffè non era buono, e ci voleva l'Italia per bere un buon caffè. Ultimamente quando vado all'estero, soprattutto con dei marchi ormai famosi in Italia, si trova del buon caffè. È molto più difficile trovarlo in Italia. Bene. Beh certo, perché il numero diciamo di caffè è superiore. Ora non voglio proprio completamente colpevolizzare, diciamo che il numero di bar è superiore, quindi le percentuali magari sono più facili trovare un buon caffè all'estero, che il numero è ristretto, che in Italia che è molto più largo. Ma sentiamo anche Michele da Como, un altro radioascoltatore. Buongiorno Michele. Buongiorno a lei. Prego. La mia esperienza è un po' in linea con quello che dicevano un po' gli ascoltatori precedenti. Io viaggio molto all'estero e ho occasione ad esempio di andare in Cina, e anche in questo paese si trovano dei caffè o dei cappuccini, dei prodotti comunque derivati estremamente buoni, di qualità e sicuramente con attenzione particolare alla preparazione. Bene. È vero, cioè, devo dire che purtroppo devo riscontrare che il maggior numero di telefonate sono in questa indicazione. Non so se magari è più facile criticare che invece sostenere. Comunque avete sentito un po' tutte le telefonate. Voglio tornare a Meschini, cosa si può fare? Ma la strada è abbastanza lunga. La prima cosa è bisogna smettere di pensare, come diceva lei all'inizio, di essere imparati. Cioè, se si continua a difendere posizioni che sono tradizionali sì, ma non di una tradizione particolarmente elevata dal punto di vista qualitativo, noi rimarremo al palo. Quello che bisogna fare è bisogna cercare di seguire quei pochi che stanno aprendo, rompendo il ghiaccio, quelle poche torrefazioni, quei pochi barristi che stanno rompendo il ghiaccio, e devo dire, con una nota di positività e di speranza, c'è un qualche sentore anche in Italia di miglioramento, c'è un maggior interesse da parte dell'utilizzatore professionale sul prodotto di qualità, sul prodotto ben tracciato, e la necessità sentita molto da alcuni produttori di conoscere di più. Credo che sia semplicemente questione di tempo. Entro 5 anni chi sarà entro questa fascia avrà una buona visibilità e potrà finalmente fronteggiare la situazione con chi è più avanzato di noi, e quindi con le frange più estreme dal punto di vista qualitativo e culturale del nord Europa, con beneficio poi per tutti e per i prodotti espresso italiano. Grazie a Enrico Meschini delle Piantagioni del Caffè. Voglio tornare a Godina, voglio chiedere se anche lui è d'accordo ed è un po' ottimista per il futuro, per l'Italia. Io sono assolutamente ottimista, le do anche una buona notizia, si parlava prima di talent show per i baristi e il primo talent show baristi è stato fatto con Francesco Sanapo e abbiamo organizzato il Barista in Farmer che quest'anno ha visto le partecipazioni di 10 baristi italiani in piantagione, 10 giorni che hanno passato a raccogliere caffè e a preparare la bevanda. Il prossimo anno altri tanti baristi europei che parteciperanno a questo talent show in Honduras, quindi le cose stanno cambiando, la formazione pian pianino e soprattutto quella europea della Specialty Coffee Association Europe sta entrando nel tessuto professionale dei baristi. Per esempio l'altra settimana abbiamo organizzato il primo campionato italiano del World Coffee Roasting, sì. La prima volta in assoluto in Italia che torrefattori, giovani micro roaster si sfidano nel chi è più bravo nel tostare un certo tipo di caffè. Quindi le cose cambiano, si stanno evolvendo, per fortuna gli italiani viaggiano, i torrefattori sfortunatamente viaggiano ancora poco, quindi proprio gli operatori, quelli che dovrebbero fare qualità, ancora non la sanno né trattare né comprendere, però pian pianino per fortuna questo trend si sta evolvendo e si sta, e io sono estremamente ottimista da questo punto di vista qui. La ringrazio, e abbiamo con noi Moreno Faina, direttore dell'Università del Caffè di Illy Caffè a Trieste. Allora Moreno, io rivolgo a lei un po' quello che ci siamo detti, magari non so se lei ha sentito la trasmissione. Insomma, questo problema della formazione, della cultura del caffè, voi da anni avete inventato questa università e credo che ci sia un numero molto importante di baristi che sono venuti a scuola da voi. È così Moreno, vero? Buongiorno Paolini. Sì, è vero. Ho sentito la trasmissione finora e gli interessanti interventi dei colleghi. La nostra attività guarda sia al mercato italiano che al mercato estero, ovviamente. Distribuiamo il caffè in 140 paesi con 24 sedi dell'Università del Caffè, per cui un piccolo contributo al miglioramento della qualità del caffè espresso nel mondo direi va anche a quelle aziende che fanno questo tipo di attività e questa formazione locale anche nei paesi che non sono l'Italia. Cito alcuni dati tanto per darle un po' un'idea: lo scorso anno sono state formate 30.000 persone fra l'Italia e l'estero, che sono un contributo piccolo se vogliamo nel panorama generale, ma un contributo che porta a vedere e a conoscere, guardare negli occhi queste persone. È vero che ci sono baristi poco attenti e poco inclini a seguire un corso di formazione, ma è anche vero che ci sono molti baristi che ci stanno credendo, che ci stanno investendo sia in Italia che all'estero, soprattutto i giovanissimi. La cosa che mi stupisce e che mi entusiasma è il fatto di vedere persone che non hanno mai gestito un bar che si affidano per conoscere i rudimenti e le basi prima di partire. Posso testimoniare, perché io sono venuto per 2 giorni anni fa, mescolato tra baristi, quindi a imparare a fare il caffè e a vedere come si fa il cappuccino, quindi posso testimoniare che queste realtà esistono e esistono anche molti italiani che partecipano. Forse non è sufficiente, ma io voglio abbiamo con noi altri radioascoltatori che vogliono intervenire. Pierangelo da Como, buongiorno Pierangelo. Sì, buongiorno, sono Pierangelo da Como. Prego. Voglio chiedere una cosa: i migliori caffè li ho bevuto in America, nel ciclo Starbucks. Oddio mio. Però prego. L'unico neo che c'è, che servono i caffè espressi in polistirolo, in bicchieri di plastica. Esatto. Cioè, ognuno la pensa come vuole, insomma credo che questo sia un esempio estremo, perché già vedere servito il caffè sulla plastica o sul polistirolo, devo dire che veramente mi vengono i brividi. Ma abbiamo con noi un'altra importante azienda, un titolare della torrefazione Quarta Caffè di Lecce. Buongiorno signor Quarta. Buongiorno a lei e a tutti i radiospettatori. Senta, io devo lanciare una lancia a favore di Lecce, perché io non so se è merito di Quarta, ma io l'ho detto più volte, mediamente nei bar che ho frequentato in giro per l'Italia e facendo su una città, magari su 4-5 bar, ho notato a Lecce una qualità veramente di come servono il caffè, di come fanno il caffè, migliore di tante altre città italiane che magari hanno l'aureolo di essere le città guida del caffè. Ma voglio chiedere a Quarta un'altra cosa. Abbiamo discusso abbastanza il rapporto, cioè Italia-estero, sul discorso che noi ci riteniamo imparati, sia i baristi che il consumatore, a fare il caffè e a bere caffè. Lei cosa ne pensa? Allora, intanto io penso che a tutta questa queste riflessioni lei ha già dato una risposta, perché non bisogna fare sempre degli esempi. Io dico che i paragoni, gli esempi devono essere omogenei, cioè non ci possiamo paragonare il mercato della somministrazione italiana, dove vede 200.000, dove vede una platea enorme di addetti ai lavori nel settore Oreca, e all'estero, dove le caffetterie sono molto inferiori. Quindi insomma è chiaro che quando c'è una base così ampia c'è di tutto, però rimane. Io saluto anche André Godina, l'amico Meschini, André che rappresenta la SCAE, che è un'elite di professionisti che stanno facendo tanto per cercare di aumentare la cultura del caffè, e anche l'amico Meschini. Però io parto da un problema. Il problema è che oggi possiamo dire che in alcuni locali si è abbassato anche il livello di professionalità, e perché è dovuto a un fenomeno socio-economico, più che altro economico, che è sviluppato negli ultimi anni, che è la liberalizzazione. Nel nostro settore dell'Oreca abbiamo avuto una liberalizzazione drammatica, è stato l'unico settore che ha avuto una liberalizzazione di aperture senza regole, creando quel fenomeno bruttissimo che si chiama di cannibalismo fra gli stessi addetti ai lavori, perché hanno creato un bacino di utenza per disoccupati, e molti hanno aperto caffetterie e tipologie di queste attività senza avere professionalità, ma soltanto per cercare di risolvere un problema di disoccupazione. Questo è stato un problema che purtroppo i nostri governanti non hanno voluto capire, e hanno abbassato il servizio e la qualità, perché quando addirittura in un momento di crisi hanno aumentato un'offerta quando la domanda invece è crollata, quindi c'è uno squilibrio terribile. L'altro problema è che in Italia, e adesso io le anticipo che ci sarà un convegno, perché grazie proprio all'associazione, un'associazione minore di categoria del Triveneto, si parlerà di certificare. Noi dobbiamo certificare il metodo di preparazione, perché ricordiamoci che per avere un buon caffè, che è una materia molto complicata, noi dobbiamo avere una macchina professionale, una quantità costante ogni dose di 7-8 grammi, di una qualità, di una miscela, dico sperando di buona qualità, macinata all'istante, e questo è l'anello debole. Il ritorno dopo, pressato con una forza di 12 kg, con dei filtri con 25 micron di circonferenza, e la cosa importante, l'acqua deve essere a 90 gradi e ci deve essere una pressione dell'acqua di 90 atmosfere, la percolazione deve avvenire circa in 25 secondi, ma la cosa importante è che l'espresso deve essere un caffè di qualità, di buon auspicio, di qualità macinata all'istante. Se noi iniziamo a chiamare espresso le capsule, il solubile, il caffè americano della Starbucks, eccetera, allora creiamo una confusione che non finisce mai. Noi dobbiamo assolutamente certificare il metodo di preparazione, che diventa patrimonio dell'umanità. Cioè, noi abbiamo un'ambizione di fare riconoscere dall'UNESCO l'espresso, che diventa un metodo solamente aperto a tutti, e quindi chi si attiene a questo regolamento eroga un espresso. Diventa espresso italiano ovviamente quando la miscela che verrà macinata all'istante sarà una miscela made in Italy, e quindi tostata e miscelata in Italia. E poi le rispondo anche a lei che diceva che dovremmo fare un stesso percorso del quanto riguarda il vino. In Italia noi non lo produciamo il caffè, quindi non possiamo certificare la produzione, anche perché la miscela è una ricetta segreta di una torrefazione. No, quindi... io ne parlavo come cultura, nel senso che anche in altri paesi, a Londra, come negli Stati Uniti, le micro torrefazioni sicuramente non producono materia prima, però danno tutta una serie di informazioni che sono importanti, cioè sapere, io mi chiedo quanti in Italia sappiano dell'arabica o della robusta e da quali paesi arriva il caffè, quindi o da quali continenti arriva il caffè, quindi credo che su questo si possa fare. Ma abbiamo un radioascoltatore dalla sua città, da Antonio da Lecce. Buongiorno Antonio. Buongiorno a tutti. Ma che caffè si beve a Lecce? Lo faccio lei questa domanda allora. Io mi onoro di essere arrivato secondo dietro al dottor Quarta, di cui sono un grande stimatore. Volevo dire, il mio bar, io ho l'attenzione di curare sia la macchina sia il macinino, perché si è detto anche del macinino che deve essere, il caffè che deve essere macinato all'istante, però le macine devono essere sempre efficienti e devono essere cambiate dopo un certo quantitativo di caffè, massimo ogni 6 mesi, ogni 300 kg di caffè, questo certo. L'ha anche detto, altrimenti si sente... Io la devo interrompere perché ci stiamo avvicinando proprio agli ultimi secondi. La manutenzione è importante, quindi sicuramente è un altro aspetto determinante, appunto la pulizia della macchina. Ma io ringrazio Moreno Faina, Antonio Quarta e tutti quelli che sono intervenuti, e io vorrei chiudere augurandovi un buon weekend, un buon caffè con Al ritmo di Pino Daniele. Però le caffè e mai niente se fanno sapi luce puzza me famo sanna tutta quanta invece ci aiuta un sciabuffo le caffè una tazzule le caffè ca sigaretta coppa pan un padre sai se ne palazzo fanno cose pazze ci girano ci votano ci engano i tassi.